mio Rodrigo, altezza, sei tu più figo al cielo, o mio fronte, signor, e il sai che metti in piena il mio nome, quando fai ancora poi. L'ora suona e chiama il popolo fiammingo, soccorrere duro dei chi fa suo salvato. Ascolta, le porte della chiesa pronta, ti verranno qui quella regina Elisabetta, rimpianta tanto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua nei cieli brilla. Domanda al ciel dei porti la virtù. Vivremo insieme, ed estremo sarà, ed estremo sarà.